Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane. Andremo avanti fino alle ore 21.30, ma subito partiamo con la sigla di apertura per questo programma. Ecco, questa era la sigla di apertura per questo programma che è Zardins Magnetics, che andrà avanti fino alle ore 21.30, anche oggi giovedì 18 dicembre 2025, e ricordo che la trasmissione è condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ora passiamo all'ascolto di questa band, band anche questa dei primi anni 80, band storica nazionale, cioè italiana, ma anche oltre i confini appunto italiani. Loro sono In Negazione e ci ascoltiamo due brani dall'album Lo Spirito Continuo, Lo Spirito Continua, è uscito nel 1986. sei troppo lontano da me, ora. Io sto andando dritto, dritto contro un muro. Sto battendo la mia testa contro un muro. Ma è meglio che riempirla di me. We'll be right back. E un saluto a tutte e tutti voi che ci ascoltate anche da parte mia, che vado così al preriscaldamento della puntata, se si può dire, cioè a così presentarvi un po' gli argomenti che saranno così oggetto di questa puntata, di ultima puntata in diretta dell'anno di Zardins Magnetics. E quindi un rapido aggiornamento sulla situazione dei Prisoners for Palestine e annessi e connessi, dei vari così compagni e compagni che si stanno portando avanti questa sciopero a oltranza collettivo in Regno Unito, e successivamente invece partiremo da qualche notizia così di aggiornamento, di cronaca, ecco, in senso lato, no, nel senso economica, ecco, di questioni, manovra finanziaria, eccetera, e poi ritorneremo su delle questioni che avevamo già tirato fuori in precedenza, riguardo appunto questione del lavoro, questione sfruttamento, questione di come impostarsi, come impostare, ecco, la lotta, ecco, contro lo sfruttamento e la repressione. E quindi per i prossimi minuti ancora un po' di musica. Volevo ricordare che stiamo ascoltando questa band che si chiamano King Kong Meuf, un Meuf comunque band francese al femminile. J'ai fait une compile sur le vomi pour les boulimiques en repentir. J'ai perdu ma casquette au parc Astérix. Je crois bien que je vais en mourir. Ok, che comunque dicevo prima, andremo adesso all'attualità. Io ero distratto, non ho capito se era una copia, diciamo, riserva, quella che abbiamo ascoltato prima, o era ristampa attuale. Cenni di sì, forse era una ristampa, ma comunque no, dato che siamo in argomento negazione Torino e proprio in questi momenti si sta svolgendo, sta per svolgere una protesta lì nei dintorni per questa colossale operazione provocatoria, non so, completamente così propagandistica di questi apparati così sì, provocatoria, propagandistica, ripeto, cioè dove si vuole, sì, si sta sempre a tirar fuori altre questioni per distrarre dalla realtà micidiale, disperata, così quotidiana delle persone, quelle che ovviamente sono escluse dal pasturare ai profitti e ai privilegi di pochi. In questo contesto, ecco, c'era, si diceva prima, la situazione di Anan, Yaesh, Ali e Mansour, tre compagni partigiani palestinesi in custodia cautelare da oltre da quasi due anni, no? Perché era inizio del 24, e dove appunto è possibile, c'è possibilità che domani, quindi per chi ascolta il venerdì, oggi la giornata di venerdì 19 dicembre, c'è l'ultima udienza del dibattimento del processo a Anan Yaesh all'Aquila, al tribunale dell'Aquila. Ricordiamo appunto che non sarà presente l'imputato in quanto è in videoconferenza, sì, è obbligato a assistere in videoconferenza, ma sono state lanciate anche delle oltre che il presidio, appunto, che si svolgerà davanti al tribunale dell'Aquila a partire dalle 9:30, appunto le organizzazioni che sostengono questa mobilitazione, quindi varie associazioni e anche di palestinesi, giovani palestinesi, hanno organizzato dei pullman per da Roma e da Napoli, in fattispecie, per raggiungere l'Aquila domani, sì, venerdì mattina. Quindi questa è la situazione di cui abbiamo parlato altre volte, vedremo cosa ne esce. Altra questione di prigionieri macinati, diciamo, dalla macchina repressiva dello Stato del Regno Unito. In questo caso sono dei compagni e giovani che sono entrati già da quasi più di quasi 50 giorni in sciopero della fame a oltranza e collettivo. E oggi è arrivata la situazione generale, appunto, è molti sono appunto in condizioni preoccupanti. Allora, sono 8 in questo momento gli attivisti di Palestine Action in sciopero della fame, in attesa di giudizio, anche loro in custodia cautelare da oltre un anno. E non è un caso, insomma, che lo Stato punisca in questa maniera le compagne e compagni sono mobilitati attivamente, sono entrati, hanno passati all'azione sul colpire la macchina da guerra che appoggia il genocidio nella striscia di Gaza. E, appunto, qui un articolo che stiamo leggendo. Gli 8 prigionieri in sciopero della fame stanno affrontando accuse relative, sì, l'abbiamo già detto, presunte effrazioni o danni, prima appunto che il gruppo di Palestine Action fosse dichiarato terrorista. Quindi queste sono ancora, appunto, sono accuse ancora non di terrorismo. Altri prigionieri, sono una trentina in tutto, insomma. Molti di questi invece sono in situazione ancora più disperata, diciamo, sono in una situazione ancora più, ecco, oppressa. Due del gruppo hanno raggiunto oggi il giorno 47esimo della loro protesta, un terzo è al giorno, chiaramente neutro, un terzo, una terza del giorno 46. Una di loro, che è Ser Zura, è crollata qualche notte, l'altra mercoledì notte, dopo aver trovato difficoltà a camminare, ha avuto un collasso e ha 20 anni e rifiuta il cibo dal 2 novembre. Va bene, sì, non è il caso del, cioè non siamo tutti uguali, no? Non è il caso del compagno cospito che aveva programmato, diciamo, la sua lotta e aveva, insomma, si era preparato, ecco. E sono così, possono essere anche persone così caratterialmente meno forti, ecco, quindi sono sufficienti anche, cioè sufficienti, sono tanti, è tantissimo un mese comunque. Va bene, ci sono preoccupazioni, ci sono anche delle dichiarazioni dei sanitari, insomma, che chiedono l'intervento. E adesso vedremo invece la dichiarazione di Mansour Adaifi, che è un ex detenuto di Guantanamo. Sì, ne avevamo parlato di questo compagno Mansour Adaifi anche la scorsa settimana, se non sbaglio, perché appunto è stato ospite in un'iniziativa a Roma, proprio in solidarietà con Anan Ali e Mansour, dove è andato a raccontare la sua esperienza di 14 anni di detenzione a Guantanamo. E appunto Mansour Adaifi ha scelto di aderire allo sciopero della fame in solidarietà con Prisoners for Palestine, proprio per rompere l'omertà dello Stato del Regno Unito. E appunto, come si diceva prima, né le autorità carcerarie né le autorità politiche hanno nessuna intenzione di arrivare, diciamo, a un confronto su questa questione dei prigionieri in sciopero della fame e delle loro anche assistenza sanitaria, diciamo, e quindi c'è una situazione di silenzio, di chiusura totale, molto pericolosa. E vi leggo così una traduzione un po' sommaria della dichiarazione di Mansour Adaifi. Salam alaikum, come ex detenuto di Guantanamo, ho trascorso anni a Guantanamo in sciopero della fame e ho subito anche l'alimentazione forzata. So come i governi puniscono e cercano di interrompere, di bloccare gli scioperi della fame. Oggi i prigionieri nelle carceri del Regno Unito sono in sciopero della fame per una questione, per la giustizia, insomma, per affermare, diciamo, la verità. Sono passati più di 45 giorni senza cibo. I loro corpi si stanno ammalando, deteriorando, e il governo britannico ha scelto il silenzio e la violenza. Il governo britannico li punisce, li ignora e si rifiuta di fornire l'assistenza sanitaria necessaria di cui hanno urgente bisogno. Questa è una condanna a morte. Gli scioperi della fame non sono, diciamo, proteste di libera scelta. come quelle che si possono fare appunto con varie, in varie forme fuori dal, dal carcere. Sono proteste estreme, no? Sì, che si portano avanti in situazioni appunto in cui non c'è altra arma che il proprio corpo. Il governo britannico vuole che questi uomini e queste donne spariscano, cioè vadano nel dimenticatoio praticamente, che la loro sparizione, la loro morte sia, venga normalizzata. I media vogliono che non se ne parli, vogliono distogliere lo sguardo. Questo silenzio è equivale a una forma di violenza istituzionale, statale. Oggi mi unisco a questo sciopero della fame in solidarietà, lo faccio perché vedo ora che Guantanamo è incorporato nel sistema carcerario del Regno Unito. Lo faccio perché è nostro dovere stare con gli oppressi e far contro all'oppressore, opporsi all'oppressore. Lo faccio perché sono in grado di farlo, ho la possibilità di farlo, e questo è il minimo che posso fare per supportarli. Questo sciopero della fame non riguarda il cibo, si tratta di dignità e appunto giustizia, insomma, di questi concetti. Si tratta di lottare contro la custodia cautelare usata come punizione, si tratta di lottare contro un sistema che crede che il silenzio lo proteggerà, cioè il silenziare le lotte lo proteggerà, ma questo silenzio non proteggerà gli stati. Sono con gli scioperanti della fame, non distoglierò lo sguardo e non lascerò che vengano cancellati. Stiamo ascoltando questa band inglese, loro hanno i GBH, dal loro album City Baby Attacked by Rats del 1982. Yeah. Ecco, ci dicevo prima appunto che andremo a parlare un po' di tematiche di attualità economica, così di manovre economiche, varie misure attuate dai governi. Partiamo da un articolo dal Manifesto del 17 dicembre, Roberto Ciccarelli, manovra fine lavoro mai, in pensione più tardi, un emendamento dell'esecutivo allunga la pena fino a 46 anni e 3 mesi nel 2035. Praticamente questo governo attuale, dopo aver presentato la legge di bilancio già da un paio di mesi, siamo chiaramente in una fase finale, deve essere approvato entro il 31 dicembre, no? Quindi aspettano fino all'ultimo minuto per inserire di tutto di più nel marasma del periodo delle festività di fine anno, tra i quali appunto questo emendamento di 30 pagine, inclusa anche la relazione, depositato dal governo alla legge di bilancio. E questo appunto emendamento che allunga, cioè più che altro toglie la possibilità di avere riconosciuti gli anni di università come come previdenziali, no? Utili a fini previdenziali. Allora è una questione in apparenza tecnica, ma evidentemente con risvolti politici. E questo togliere l'effetto, il peso degli anni di laurea sul conteggio degli anni appunto di lavoro significa questo, che i lavoratori saranno costretti a lavorare di più a lungo. Il riscatto della laurea non produrrà più effetti previdenziali, in compenso lo Stato produce risparmi di volta in volta, risparmi di spesa, no? Risulta che loro hanno contenuto le spese, no? Perché non devono erogare le pensioni che erano previste per quell'annato lì, e rinviando diritti già maturati, perché se uno magari è già da un po' di anni che ha pagato appunto per farsi riscattare gli anni di università, ormai quelli là li ha pagati, non gli ritornano indietro. L'inasprimento del sistema pensionistico sta nella logica della riforma Fornero. La riforma Fornero fu la legge, diciamo, di svolta appunto del governo Monti, no? Governo di emergenza di banchieri una dozzina di anni fa, e questa logica è quella del appunto di concepire il diritto alla pensione come qualcosa di sbagliato, e anzi di caricare la dose di presentarlo come qualcosa di ingiusto, immorale, e anche quindi che va punito, no? In questo contesto qua, che era già sanguinario, diciamo, della Fornero, questi di adesso sono riusciti a superare anche questi livelli di odio che hanno i governanti per gli sfruttati, e hanno appunto reso il sistema previdenziale più rigido, più ingiusto e anche più punitivo. E questa era una delle notizie di quello che è appunto l'universo quotidiano del lavoro, eccetera, no? Al di là dei ponti da costruire, al di là delle Olimpiadi da festeggiare, al di là delle supposta pericolosità di presunti assalti alle redazioni di giornali già con nomea di bugiardi, ecco. Comunque, allarghiamo adesso il campo. Noi adesso è siamo alla metà di dicembre passata, a metà ottobre il Parlamento della Grecia ha approvato la giornata lavorativa, la possibilità della giornata lavorativa di 13 ore, e sono subito scattate delle proteste. La legge che ha presentato, diciamo, il governo permette alle parti datoriali di prolungare la giornata lavorativa a 13 ore al giorno per un massimo di 37 giorni all'anno su base, fra virgolette, volontaria, nel senso, fra virgolette, nel senso che non ci sono, chiaramente si vuol saltare il passaggio del collettivo, si va direttamente a interloquire individualmente con i lavoratori. Il governo Mitsotakis ha introdotto già in precedenza la settimana lavorativa da 6 giorni con possibilità di lavorare fino all'età di 74 anni, che è un governo neoliberista che c'è già da un po' di anni in Grecia. E, parentesi, la media settimanale in monteore di monteore in Grecia è di 42,8 già adesso, 42,8 ore a settimana per i maschi, 39,1 ore per le femmine. E il lavoratore autonomo è ancora peggio, perché si valuta, beh no, ancora peggio, la stessa cosa, però sì, no, numericamente è peggio, 46,6 ore a settimana. Se guardiamo complessivamente tutta l'Unione Europea, si parte appunto dai 35 ore che hanno in Francia, le 34 che hanno in Germania, ore settimanali, l'Olanda addirittura 32, ma il resto, passando per l'Italia che è nominalmente 36 ore ancora, tutta l'area danubiana, diciamo, e Polonia eccetera hanno sopra le 38 ore già adesso. La Turchia, sono dati relativi all'anno 2024, la Turchia ha già le 43 ore a settimana. Passando al Portogallo, ci sono state anche in Portogallo forti proteste, una situazione un po' più pacificata della Grecia, però erano tanti anni che non veniva promulgato uno sciopero generale, e là appunto viene esplicitata questo discorso del raggiungere un accordo lavoratore datore di lavoro, e si potrà aumentare l'orario settimanale fino a un massimo di 50 ore a settimana, accordo individuale e non collettivo. Scusate. Quindi questo significa concretamente un aumento del bancore individuale senza aumento di stipendio, in pratica straordinari non erogati fino a 150 ore all'anno. E appunto inizio di questo mese c'è stato il primo sciopero generale dal 2013. In tutto questo concludiamo, ma non è nient'altro che una direttiva dell'Unione Europea, che esiste tra l'altro anche da noi in Italia, la direttiva UE 2003/88/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, la durata media dell'orario di lavoro per ogni periodo di 7 giorni non superi 48 ore, comprese le ore di straordinario. Ecco, ne approfitto anche per così contestualmente dire che è uscito anche il numero 3 di Strike, foglio per l'organizzazione di classe, sempre dei compagni di Antitesi, che appunto riportava questa, da cui ho preso questa ultima notizia, insomma, che si riferisce appunto a una direttiva di tutta l'Unione Europea, non sono iniziative così scollegate. Oh! ci siamo, sì. Andiamo avanti con questione lavoro. Dico, cioè, ho tirato fuori questa vicenda anche perché sono discorsi che si fanno, capita di fare questi qui, ad esempio giustamente lamentarsi per le paghe basse, per la precarietà dei lavori, per l'improvvisazione delle mansioni, no? A cui si è chiamati. Bisogna essere lucidi, capire appunto che la prospettiva è questa qua, che si andrà per legge alle attuali, sono 40, mettiamo così, in campo manifatturiero, 40 ore, 36 quello che è, 38 quello che è, si andrà alle 50, quello lì la prospettiva, e anche senza straordinari, quindi senza straordinari, e le pensioni, cioè la possibilità di smettere di lavorare, verrà negata praticamente per legge a quelli che sono esclusi appunto dai privilegi del profitto, dell'appropriazione, ecco, delle ricchezze. Ma questa è una questione. Seconda questione è l'approccio, no, a questa tematica. Può essere anche automaticamente ormai molto, diciamo, entrata nella chiamiamola vulgata, quella per capirsi così di origine marxiana, marxista, ecco, ma anche alla lontana, no? Allora faccio una digressione, nel senso che comunque i prossimi due giovedì non saremo in diretta perché lo studio qui giustamente è festivo, quindi non è utilizzabile, e faremo sicuramente, ecco, degli approfondimenti, delle puntate speciali. Una di queste verosimilmente sarà un invito, ecco, alla lettura di questo nuova uscita intitolata Fuori la grana o vi ammazziamo, Alessi dell'Umbria, un componente o uno pseudonimo, non ho ben approfondito, di questo collettivo, gruppo, dai, Os Cangaceiros, dell'ambiente dell'autonomia, diciamo, francese, quella famosa autonomia che non è l'autonomia italiana, è quella appunto un po' più simile, affine a quei gruppi, quelle tendenze di cui abbiamo già parlato in precedenza varie volte, che sono il consiliarismo e il gruppo LUD e l'organizzazione comunista, no? In Italia, anche gruppi molto minoritari, ma con la prospettiva appunto del rifiuto del lavoro sostanzialmente, e dell'attacco praticamente di appropriarsi immediatamente dei soldi là dove si trovano, ecco. Allora, e in particolare, ecco, voglio partire da questo stampo marxista, si parla a un certo punto in questo Fuori la grana vi ammazziamo, che è una traduzione appunto di un libro che non è tanto vecchio, è uscito in Francia appunto solo 2-3 anni fa, è un mix di memorie e di considerazioni più generali. A un certo punto appunto viene fuori questa questione del lavoro. Una volta tornati in qualche modo alla vita civile, sì, nella nostra posizione avevamo altre possibilità da quelle della lotta armata, diciamo, per agire, no? Cioè c'è questo momento in cui si critica questa sì, punto del libro, dove si, del racconto, dove si critica quelle che loro dicono avanguardie, avanguardismo militante delle organizzazioni impegnate nella lotta armata. Nella nostra posizione avevamo altre possibilità per agire. Appropriarsi di competenze e abilità in diversi campi ci sembrava molto più cruciale, perché le questioni cosiddette tecniche ponevano anche questioni sociali e politiche. Una volta tornati in qualche modo alla vita civile, dopo lo scioglimento del gruppo e ormai implicati in altre attività, realizzammo che il fatto di aver avuto sempre a disposizione un po' di soldi aveva prodotto anche un effetto perverso, quello di stringere, di restringere le nostre attitudini in questi campi. L'opposizione tra lavoro astratto e attività concreta aveva trovato nella nostra forma di vita la sua estrema espressione, sebbene rovesciata. Gran parte delle nostre attività aveva come oggetto qualcosa di astratto, il denaro. E si racconta di truffe, tutto il primo pezzo del libro raccontano come truffavano, insomma, quando ancora si poteva truffare andando a fare prelievi allo sportello con lo sportellista in carne e ossa, e così i soliti trucchi con gli assegni, queste cose che oggi non sono più praticabili. Gran parte della nostra attività aveva come oggetto qualcosa di astratto, il denaro. L'attività veramente libera iniziava solo a condizione di aver regolato in precedenza tale necessità. Lo scioglimento di Oskangaseiros fece dunque ritornare in superficie alcune questioni lasciate in sospeso. Qualche anno dopo, cioè siamo oltre la metà degli anni 90, qualche anno dopo un vecchio del gruppo mi confidò: tutti questi anni li ho passati a disimparare tutto ciò che sapevo prima. Quando ci eravamo incontrati 20 anni prima, era molto abile con le mani, costruiva mobili, riparava macchine e prima di passare alla riappropriazione individuale, cioè alle rapine, aveva lavorato, e alle truffe, aveva lavorato un po' come operaio. Aveva anche partecipato a uno sciopero selvaggio in una fabbrica metallurgica della periferia di Nantes, dove lavorava come gruista. Dal momento in cui iniziò a ripulire le banche, non ebbe più bisogno di sviluppare queste competenze e abilità e finì per perdere la mano. Eravamo nel 95 e l'amico in questione era molto coinvolto nel sostegno alla ribellione zapatista. Ma la prospettiva di un viaggio in Chiapas lo lasciava perplesso. Quale può essere il mio contributo? Quello di cui hanno bisogno sono persone con competenze tecniche, capaci di aiutarli a realizzare dei progetti, mentre io non so più che farmene delle mie mani. intanto ci stiamo ascoltando questa band slovena dal loro ultimo album che si chiama Obzozam. Loro sono gli di Lubiana, tra l'altro Otpaki Civilization, cioè scusate, Civilazia. Eccoci di nuovo qui a Zardins Magnetics di questa puntata del 18 dicembre 2025. Sono già le, in questo momento, le 21, ma stavamo dicendo di questo così approccio a, alla questione del rifiuto del lavoro, che comporta appunto un'espropriazione di quelle che sono le competenze, no? A livello così immediato, no? Del, sì, del, della persona, dell'individuo. Ma questo ci permette di, come ho anticipato all'inizio, di ritornare un attimo invece alle suggestioni, chiamiamole così, o delle così punti di vista non strettamente, anzi per niente marxiste-leniniste, di Alfredo Bonanno, che anche se datate, perché appunto risalgono a più di 25 anni fa, in questa conferenza che si chiamava Il ripristino degli dèi, conferenza svoltasi ad Atene nel 2000, e ci permette così di analizzare, fare un'analisi del sistema economico da un punto di vista anarchico. Ecco, quindi prima di tutto Alfredo Bonanno si chiede, ma ok, cosa c'è in concreto sotto la così l'etichetta sistema? È realmente un sistema questo economico, o è semplicemente la copertura di qualcosa di completamente eterogeneo, completamente caotico, completamente fenomeni anche difficili, complicati da legare fra di loro, no? Ed è proprio così, ed è proprio così, tutte quelle che sono le caratteristiche del, di questo che è il sistema capitalista, ovvero elencando la proprietà privata, il ruolo del consumatore, le imprese, il lavoro salariato e l'importanza del settore industriale per il capitalismo, sono tutte, vengono così una ad una decostruite, e si vede appunto che hanno fra di loro, non sono in grado di mettere in piedi qualcosa che si chiama il sistema. E la realtà appunto è che c'è un contesto molto fatto di incertezze e rischi, sia per gli stessi, appunto, per gli stessi economisti che l'hanno assunta, questa l'hanno integrata nell'analisi, questa incertezza e questo rischio, non di certo all'imprenditore piacerebbe rapportarsi con la prudenza e con la ripetitività, no? Pensiamo addirittura ad esempio a una produzione, quella che può essere produzione di, come si chiama, di, cioè di, che non è quella solida, cioè ad esempio nel campo dell'agriindustria, ecco, nel campo dell'agriindustria non pensiamo al settore quello più destinato, ecco, all'alimentazione, ma andiamo ad esempio su quelle un po' più specialistiche, non so, la frutta o il vino, no? Lì si vede che stagione per stagione l'imprenditore sarebbe contento ad avere zero incertezze e ripetizione di annate che si susseguono una dietro l'altra felicemente per lui, no? In realtà appunto confrontandosi con questo sradicamento perdita di competenze di capacità individuali dei lavoratori, viene fuori in realtà che c'è stata una svolta, ecco, la cosiddetta nuova economia dopo la fase del capitalismo degli anni 80, del neoliberismo appunto, dove è stato imposto con la violenza, diciamo, un determinato sistema, ma con la violenza e anche con l'inganno, non so, con una serie di appunto distrazioni di massa, e poi è subentrata appunto la telematica, l'informatica, e questo ha generato una serie di trasformazioni irreversibili, ecco, che hanno portato a questa perdita di competenze. In quel momento c'era ad esempio, ma già in crisi, questo discorso della qualità, no? Il discorso della qualità dell'impresa era fondato su una rigida compartimentazione, no? Nell'impresa, tra chi eseguiva, chi progettava e chi controllava quelli che progettavano e quelli che eseguivano. Questa rigida compartimentazione è entrata in crisi col passaggio degli anni 80, ed è subentrata quest'altra che c'è ancora adesso, che prevede appunto, che è quella della ricerca continua della qualità, la produzione di qualità. Questo cosa, andiamo a vederlo, insomma, andiamo anche qua a decostruire, vediamo che adesso, come appunto già da un bel po' di tempo, ogni settore dell'impresa si rapporta all'altro settore come un cliente. Allora, sempre l'esempio dell'agroindustria, chi sta appunto a fare il vino, chi sta in cantina, si rapporta con quello che sta nel campo come se fosse un cliente, quindi fa dei controlli di qualità, effettivamente vuole riscontrare se le determinate caratteristiche sono state rispettate, non come appunto prima, dove si era tutti orizzontali, no? Adesso appunto entra capillarmente, diciamo, non capillarmente ma comunque specificamente, questa separazione, questa individualizzazione delle responsabilità nel rispondere appunto sulla qualità del prodotto. Secondo passaggio, questo discorso della qualità non è più rimaniamo nell'esempio del vino, dopo possiamo anche cambiare, ma comunque il vino non è un vino che funziona, cioè non è che perché il grappolo è diventato mosto e poi vino e funziona bene, non è sufficiente questo, può essere anzi controproducente a un certo punto di vista. Va inserito in un contesto complessivo, in una logica della ricerca del prodotto di qualità. Allora la qualità non sta più nel bene specifico, nella merce, ma si inserisce in un contesto fatto di relazioni, no? Di appunto di che non è appunto semplicemente il ciclo di produzione, ma il ciclo di produzione comprende anche il consumatore, quelli che sono i suoi desideri, le sue aspirazioni, il suo desiderio per esempio di scalata sociale, vuole avere quel tipo di vino che diventa uno status, no? Al di là, ripeto, della bontà del vino, al di là della quantità anche del vino, no? Paradossalmente andremo a estirpare ettari di vigneti per cercare quel prodotto che soddisfa lo specifico target di consumatore. Adesso a noi interessa di tutto questo il fatto che per arrivare a questo punto il sistema, ecco, il sistema, quello che si chiama sistema economico, ma che abbiamo capito che non è un sistema nel senso classico, ha dovuto mettere in piedi un impianto, insomma, tale da far suggerire all'individuo un insieme di connessioni vaghe, e che è meglio che siano vaghe, che rimangano vaghe, che non vadano a definirsi, in modo che gli rimane sempre un certo grado di insoddisfazione, relazione tra ambiti anche distanti, non intuitivamente vicini, e che riguardano la condizione sociale nel suo insieme, ecco, l'insieme della condizione sociale del consumatore. Quindi trasformando completamente quello che era un individuo con delle competenze, abbiamo detto già altre volte, in uno stile, cioè in uno stile, in qualcosa di completamente espropriato, senza niente di più niente di creativo o di autentico o di suo specifico, insomma, che sia spendibile. Ancora un po' di musica. dance in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is. Forse in questi giorni avrete sarete incappati in queste note dei Moody Blues degli anni 60, che sono di sfondo a una pubblicità di un profumo da uomo, e andando a cercare le informazioni su questo profumo si trova che è il profumo di un uomo che ricerca la perfezione e racchiude in sé la profondità di infinite possibilità. Lo spirito di un uomo alla ricerca di un orizzonte che non è visto come una linea di fuga, ma piuttosto come un tratto che sottolinea l'infinito. E c'è appunto il testimonial, è un attore di Hollywood di questi anni, che si chiama Timothée Chalamet. E per dire che sono prodotti, ecco, si diceva prima, ecco, di questo discorso del ricerca, tutto questo mentre appunto intorno a noi è un discorso che mi rendo conto che diventa moralistico, ma non è che non facendolo non ci circonda il moralismo. Non facendo questo discorso ci circonda un altro moralismo, che è quello che ci arriva dal, diciamo, dai media, dire così, di quelli principali, che ci dice appunto anche Alfredo Bonanno, ci fanno cadere sulla testa continuamente notizie, non notizie, più che altro lui li chiama opinioni, no? Anzi, opinioni su fatti, quindi artefatti, discorsi tutti scollegati, senza un contesto, che non aumentano di niente la capacità di giudizio di una persona, no? Le opinioni sono notizie polverizzate, dissociate fra loro, prive di una connessione di metodo, sfornite di un qualche scopo progettuale di tipo culturale. Le opinioni si ammassano come le patate in un sacco, fanno peso ma non spostano di una virgola la capacità di giudizio di una persona. Non è che non esiste il moralismo, il moralismo è quello appunto del bravo cittadino, di quello che rispetta, di quello che si adatta, di quello che si diventa flessibile alle richieste, che sa fare, che ha zero, cioè che ha competenze bassissime ma sa fare tante pezzi di cose, no, che gli fanno fare al lavoro, cose anche non molto semplici, diciamo, non astratte, ecco, e avanti, insomma, quello lì resiste, ecco, quello lì è l'individuo che resiste. L'individuo che cerca di resistere invece lo stritolano, perché come hanno già detto, resistere nelle condizioni di concorrenza indiretta che stanno costruendo nell'ambito del mercato fantasma della nuova economia significa farsi rompere in due. La regola essenziale è la sopravvivenza del più adatto, e il più adatto non sempre il più forte, a volte, come nel nostro caso, è proprio il più debole. Va bene, per il momento comunque rimane ancora che gli esclusi riescono a capire quello che loro stessi stanno difendendo, non gli è ancora sparito dall'orizzonte questo, no? E questo ci porta così alla tesi della conferenza, che è praticamente l'attacco, distruggere quello che si ha, insomma, non resistere, ma distruggere quello che ci opprime. Le paure che non possiamo eliminare sono quelle riguardanti il futuro, proprio perché nel possibile, il possibile di cui parlava il profumo, proprio nel possibile di cui la realtà in cui viviamo sottolinea continuamente l'esistenza, tutto è possibile, anche l'evento estremo portatore del massimo danno per noi. L'aver individuato proprio all'interno della protesi più rassicurante, quella scientifica, con il suo corollario tecnologico e quindi le sue realizzazioni pratiche il massimo pericolo possibile, rende il problema della distruzione di grande importanza. Non è possibile non porlo al centro del che fare. Quindi ecco la critica implicita all'approccio marxista-leninista. Distruggere quello che ci opprime è quindi un passo fondamentale nella vita di ognuno di noi, cioè parla a tutti questa chiamata a distruggere, non è che solo a certi, ecco. Distruggere o sopportare, ma la sopportazione è tutt'altro che una virtù eroica, in quanto non ci fa immuni dalle modificazioni che il nemico ci induce con la sua oppressione. Se non attacchiamo, veniamo attaccati, se non distruggiamo, veniamo codificati, integrati, fatti cosa sua dal nostro nemico, insomma annullati, distrutti. Se vogliamo rispondere adeguatamente alla proposta nullificante che ci viene indirizzata senza mezzi termini, dobbiamo distruggere. Sì, allora prima di salutarci per la fine di questa puntata di Zernis Magnetics, vi annuncio che giovedì 25 dicembre, quindi a Natale, dalle ore 17 a Trieste nei dintorni del carcere del Coroneo ci sarà un presidio a supporto di tutti i detenuti, quindi musica e anche parole calorose, presidio promosso da Radio Goblin, e quindi siete tutti invitati a partecipare a questa, a questo presidio solidale con i prigionieri. E, e ricordo appunto che sia giovedì 25 dicembre che giovedì 1 gennaio non andremo in, in onda in diretta, ma insomma ci sarà, architetteremo qualche puntata speciale appunto per non farvi andare in astinenza da Zardins. E niente, ciao. Teniamo comunque sempre in sottofondo questa band londinese, loro sono gli Agnosi, band che appunto si è formata all'incirca 2010, questo è il loro ultimo album, non saprei dirvi se la band esiste tuttora, comunque è datato 2019 questo album che si chiama When the Light Reveals the Turtle. Come detto, loro sono gli inglesi, anzi della zona di Londra, e Agnosi. Bene, siamo ormai al termine di questa puntata di Zardins Magnetics, che è un programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dai studi di Radio Onde Furlane. Anche oggi, giovedì 18 dicembre 2025, e anzi questa è l'ultima volta per quest'anno che ci sentiamo in diretta, quindi il tutto, cioè, per riascoltarci, avverrà nel 2026, e ricordo che questo programma funziona grazie all'interessamento dell'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Friuli e Trieste. Ricordo anche i nostri contatti, se volete scriverci in forma tramite posta elettronica, scrivete a liberetutti@autistiche.org, ripeto, liberetutti@autistiche.org. Se volete scriverci in forma cartacea, intestate tutto ad Associazione Senza Sbarre, Casella Postale 129, Trieste Centro 34121. Inoltre potete riascoltare questa puntata odierna, ma anche tutte quelle delle volte scorse, nel blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org, ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. bene, allora vi salutiamo, ci risentiamo in diretta al prossimo anno, salutiamo anche chi ci ascolta domani in replica sulle web radio alle ore 11 di venerdì su Radio Eustachio, e poi anche alle ore 17, sempre domani venerdì, sulla web radio Radiazione. Bene, ciao a tutti e vi lascio con questo, ancora con un brano, non credo due perché sono tutti lunghetti, e questi Agnosi. Ciao a tutti e tra tre giovedì.